get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte, quella che sta per iniziare la nostra 294esima trasmissione. Oggi lo studio è parecchio, parecchio affollato perché ci stiamo accingendo ad iniziare la seconda trasmissione in cui parleremo degli stereotipi di genere. Spero ricordiate che nella nostra puntata precedente avevamo iniziato ad affrontare questo tema parlando con Monica Martinelli della casa editrice 7-9. Che è una casa editrice dedicata alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere attraverso i libri per ragazzi. Bene, quest'oggi cercheremo di approfondire ancora di più andando a rendere leggibili le ricadute che si possono evidenziare attraverso l'osservazione diretta sugli alunni che giornalmente vivono le nostre scuole. Per farlo abbiamo con noi alcune insegnanti con le quali cercheremo di approfondire il tutto passando anche, anzi soprattutto, attraverso il loro coinvolgimento diretto e in quanto, come dicevo prima, sono appunto insegnanti, quindi tutti i giorni hanno di fronte i ragazzi. Ognuna di loro appartiene a ordini di scuola differenti e questo speriamo possa permetterci una panoramica un po' più ampia. Allora, direi che per il momento ci possiamo fermare qui e vi ricordiamo che potete inviarci un sms al 339-85-36-270 oppure potete telefonarci allo 06 49 17 50 fino alle ore 22. Bene, adesso ascoltiamo un brano musicale, si tratta di Carmen Consoli che canta A-A-A, Cercasi. Fornita intraprendente, giovane e brillante, ma più di ogni altra cosa dolce e consenziente. Apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Donna giovine e libata, cercasi. Donna usata, già rodata, cercasi. Donna sicula o padana, oriunda clandestina. Vediamo come balli a suon di samba o cha cha cha. A colpo d'occhio sei portata e molto telegenica, ma forse ti interessa più la musica. Cercasi badante, un ottantenne miliardario affascinante. Un'opportunità di vita più agiata. Donna impenitente e ladra, cercasi. Donna santa incensurata, cercasi. Deceduta il giorno prima, basta che sia buona. Come baceresti se dovessi fare cinema? Scena prima, chuck motore, azione, poi si gira. O forse ti interessa la politica? Ministro degli affari a luci rosse, ora Allora, una delle insegnanti in questione sono io, quindi comincio a parlare del mio vissuto. Allora, molti anni fa vinsi un concorso per entrare nella scuola dell'infanzia, che all'epoca si chiamava Materna. Materna stava a significare che l'educazione dei giovani virgulti italici avrebbe dovuto essere a pieno appannaggio delle donne, meglio ancora se madri. Si dava per scontato che loro, le madri, quotidianamente avrebbero riproposto a scuola quanto le convenzioni avevano loro trasmesso, anzi non definivano scuola quel luogo pronto a forgiare il carattere dei nuovi germogli. Molto comunemente veniva utilizzato giardino d'infanzia, quasi a simboleggiare che le tenere piantine necessitassero di induzioni per germogliare. Vere e proprie fucine, antesignane della valorizzazione del prodotto naturale, ma che dico naturale, meglio biologico, come a conferma del fatto che è proprio così che deve andare. Quindi già il nome dell'ordine scolastico dove avrei insegnato la diceva lunga su quanto gli stereotipi di genere avessero influito sulla cultura nazionale e su quanto si sperava continuassero ad essere rigenerati di continuo. Nonostante tutto mi piaceva l'idea di lavorare in quella scuola, già scuola, perché io l'ho sempre definita come tale. Dico nonostante tutto perché mi resi conto che non avrei potuto assolutamente perpetrare il rinnovo di tutti quei concetti a me così distanti. Poi dalle risposte delle bambine e dei bambini mi resi conto immediatamente che io stessa col mio modo di essere ed il mio modo di fare forse non rispecchiavo proprio l'immagine della maestra che ognuno di loro aveva in mente. Ho fatto nascere non pochi dubbi e lo dico con estrema soddisfazione. Ricordo infatti che nei loro disegni mi raffiguravano tutta trine, merletti, piena di collane, anelli, spille e addirittura diademi. E quando facevo notare loro che forse quella disegnata sul foglio non assomigliava propriamente a come io ero nella realtà, mi sentivo rispondere: beh, ma tu sei femmina. Continuando io a non vestirmi come una femmina era stato loro insegnato dovesse vestirsi, iniziavano le domande del tipo: ma tu sei maschio o femmina? Alla quale io regolarmente rispondevo: beh, naturalmente femmina. E così si arrivava inevitabilmente alla terza fase, che comprendeva molte altre domande del tipo: ma tu hai figli? No. Ah, allora sei solo sposata? No. Allora ti sposi tra poco? No. Ah, ho capito. Come si chiama il tuo fidanzato? Ma io non ho un fidanzato. Ah no? Ma allora come fai? A fare che? Tutto. Ma tutto che? Per esempio... E solitamente quando si arrivava qui il discorso si impantanava, perché raccontavo spesso delle mie vacanze, dei miei viaggi, dei film visti e delle due gattine siamesi che avevo in casa. Quindi non avevano la possibilità di individuare, essendo senza figli, non sposata e neppure fidanzata, cose per le quali, appartenendo a quella strana categoria di persone, in situazioni normali io non avrei potuto accedere. Secondo i loro parametri io avrei dovuto essere impossibilitata a fare tutto quello che invece facevo. Ma attenzione, questa fase non durava molto, perché una normalizzazione prima o poi la dovevano trovare, e quindi si arrivava alla quarta fase, questa. Allora vivi con tua mamma. Vedevo stamparsi sui loro volti un'espressione di sorpresa mista a sgomento quando, regolarmente, rispondevo con naturalezza: no, vivo da sola. Ma tutta questa situazione, che periodicamente si riproponeva fedele a se stessa, mi ha spinto a capire come mai in bambini e bambine così piccoli fosse tanto normale avere delle categorizzazioni così marcate, che certo non lasciavano intravedere nel loro futuro una possibilità di percepire altre strade diverse da quelle già così nettamente delineate. Passai molto tempo a leggere con più attenzione il materiale didattico, guide comprese, che suggerivano a noi insegnanti tutta una serie di attività che ci avrebbero permesso di far raggiungere agli alunni gli obiettivi. Mi accorsi che gli obiettivi, quelli che i programmi scolastici avevano fissato e che io ero tenuta a far raggiungere, non erano sbagliati di per sé. Era solo fuori dalla logica, o quantomeno fuori dalla mia logica, la strategia che ci veniva suggerita per arrivarci. Questa strategia prevedeva l'utilizzo di favole, filastrocche, recite, canzoni, filmati, poesie, libri e quant'altro, nei quali risultava abbastanza evidente una netta demarcazione tra le cose da femmina e quelle da maschio. Questa linea di demarcazione veniva fatta passare in un modo abbastanza subdolo, perché la rappresentazione del femminile o del maschile sembrava non essere la cosa più importante che necessitava di essere sottolineata. Veniva spacciata soltanto come il mezzo che tu dovevi usare e che ti permetteva però di fare altro. Mi spiego meglio. Se un bambino, ad esempio, per sviluppare la coordinazione occhio-mano doveva, attraverso un esercizio specifico, tracciare una linea con la matita dentro una strada, mi domando quale avrebbe potuto mai essere la necessità di disegnare una scenetta che raffigurava una mamma che doveva apparecchiare, quindi la strada da fare con la matita era dalla dispensa alla tavola. Oppure perché la scenetta rappresentava un papà con la valigia che doveva andare al lavoro e quindi la strada da fare con la matita era dalla porta alla macchina? La cosa che mi rattristava di più era l'aver scoperto che anche se io non usavo quelle figure e ne cercavo altre, insomma, utilizzavo materiale che sceglievo io, molti alunni avevano già assimilato che c'erano cose da maschio che sarebbe stato bene che le femmine non facessero e che al contempo c'erano cose da femmina che i maschi assolutamente era proprio meglio non provassero neanche lontanamente a fare. Una delle mie attività preferite era provare a scardinare questo stato di cose, non certo perché volevo far entrare in crisi i bambini e le bambine, ma perché secondo me prospettargli una visione altra avrebbe garantito a lungo andare che nessuno di loro sarebbe più entrato in confusione. Ricordo una mamma che un giorno mi disse: non voglio più che mio figlio giochi con le pentoline, se gliele dovesse chiedere ancora gli offra un pallone. Incredibile quanto il perpetrarsi di un concetto distorto di alcuni aspetti della realtà possa diventare deleterio tanto da far credere alle persone che quella visione suggerita, quella lettura e quella interpretazione della realtà sia l'unica, la sola normalità possibile. La distinzione tra ruoli tipicamente maschili e femminile inserisce il concetto di ruolo. Spesso il ruolo è condizionato e suggerito da stereotipi, ovvero da rappresentazioni che tendono ad essere trasmesse da una generazione all'altra. Il più delle volte queste credenze risultano essere sia largamente condivise quanto assolutamente indifferenti alla realtà. Gli stereotipi si configurano molto spesso come luoghi comuni e solitamente sfociano nei pregiudizi. Ho sempre creduto che portare nella scuola questi pregiudizi avrebbe dato credibilità a certi messaggi contenuti nelle favole. Quando si lanciano messaggi raccontando una favola, i bambini accedono in una dimensione particolare dove si raggiunge il loro immaginario, una sorta di luogo senza tempo, spazio e storia nel quale si dipanano le vicende dei personaggi. Le fiabe, quindi, rappresentano situazioni. Se queste situazioni vengono semplificate stereotipando le vicissitudini dei personaggi, si delinea una definizione esplicita di bene e male, immediatamente fruibile, che i bambini assimilano. Assimilano ed interiorizzano, quindi ripropongono. Sappiamo che le favole rientrano nella categoria di strumenti per la trasmissione orale della conoscenza e che molto spesso questo strumento è stato una vera e propria salvezza per le donne. È proprio per questo che ho sempre fatto particolare attenzione quando quella cultura orale tentava di effettuare una riaffermazione dei valori tradizionali e dei ruoli passando sull'utilizzo di stereotipi. E poi, avete mai provato ad analizzare le donne nelle favole o nei racconti sui libri di testo? Come scrive Giulia Siviero nel suo articolo che riporta la ricerca fatta sui libri di testo di quarta elementare delle principali case editrici italiane dal titolo Elementari, i libri insegnano a discriminare le donne, leggo: da un punto di vista quantitativo, bambini e donne sono sottorappresentate. Ogni 16 protagonisti uomini ci sono 10 donne. Queste ultime sono pettegole, invidiose, vanitose, smorfiose, affettuose, apprensive, angosciate, premurose, pazienti, tenere, vergognose, silenziose, servizievoli, comprensive e docili. Tra gli aggettivi riferiti invece esclusivamente al genere maschile si trovano sicuro, coraggioso, serio, orgoglioso, onesto, ambizioso, minaccioso, pensieroso, concentrato, generoso, fiero, duro, egoista, iroso, virtuoso, saggio, deciso, audace e libero. No, dico, vi rendete conto? Adesso mandiamo un altro brano musicale, non so che cosa c'è in lista, da qua non leggo, siccome che sono ciecata, appunto, se riesce a leggere chi c'è dopo. Lo puoi dire, Stefania, puoi parlare nel microfono, vai. Beh, non so la pronuncia, comunque Patricia Barber. Ok, vai. Love with her. Hopelessly smitten and strangely driven to stop and stare and wonder, how have I been here before, and why do I want more and more, each into the other, this place that has given form to what was private bliss. Upon reflection, I find I'm losing myself and my mind. Allora, eccoci ritornate in studio e a questo punto vi presentiamo le nostre ospiti. Caterina, come avete sentito, ci ha introdotto egregiamente l'argomento e adesso noi abbiamo qua una rappresentante per la scuola elementare, tale Nancy. Non si chiama più elementare, ma si chiama scuola primaria. Adesso allora, la scuola primaria per tutte le altre, elementare per Nancy. E poi abbiamo per la scuola media Scuola secondaria di primo grado. Scuola secondaria di primo grado. Abbiamo Elisa. E poi per la scuola secondaria di secondo grado, Elena, che avrete riconosciuto sicuramente. Quindi rivolgo a tutte e tre questa prima domanda, che abbiamo noi partorito dalle nostre menti, eccetera, eccetera, come CLR, ed è: in base alla vostra esperienza con le bambine e i bambini e con le persone adolescenti che sono quindi senza sesso, nella scuola, che tipo di relazione avete instaurato a partire dal vostro modo di rappresentare un femminile diverso? E adesso ci delizierà Nancy. No, io parto semplicemente da una cosa successa proprio stamattina, quindi parto proprio da esperienza quotidiana, ma proprio di qualche ora fa. Il mio rappresentare un femminile diverso ormai è, a chi mi conosce è chiaro a tutti, è a chiarissimo a tutti, è chiaro, ed è chiaro soprattutto, a volte Lucilla si merita una randellata, prima o poi gliela darò. Dico, soprattutto è chiaro, no, il mio essere femminile in un altro modo, mi piace dire questo, alle mie alunne e ai miei alunni. Allora racconto proprio questa cosa. Stamattina stavo camminando, stavo andando per San Lorenzo, a fianco proprio un ragazzo di questi che vendono i calzini. Lui percepisce la mia presenza, ma non mi vede in faccia, quindi non so cosa percepisce di me, qualcosa, e mi fa: ciao frate. Io naturalmente rimango, come sempre in questi casi, dopo che mi hanno detto se ero io l'autista del 20, ormai sono abituata a queste cose. Il bello è stato che entro a scuola al mezzogiorno e mezza e racconto questa cosa ai bambini e alle bambine, quindi dico il fatto così, dico: e sapete, insomma, questo ragazzo mi ha detto ciao frate. Si alza Christian e mi dice: ah, ma è pure a me me lo dicono sempre. Adesso questo a dire che lui non gliene fregava niente del frate, cioè per lui era normale questa cosa, quindi vedermi in quella, a me, lui mi conosce così, quindi non è che se questa è femmina, no, lo dicono anche a me. C'è stata una sorta quasi di identificazione, se vogliamo, dice: lo dicono anche a me perché tu comunque hai queste caratteristiche, però è ovvio che Christian sa che sono una femmina. Oh, infatti, quindi è questo. Per quanto riguarda il mio rappresentarmi, il mio essere, ormai è chiaro, insomma, io mi ricordo che quando ho iniziato ad andare a scuola portavo giacca e cravatta, andavo impeccabilmente in camicia, giacca e cravatta, quindi non c'erano dubbi su che tipo di femminilità potevo portare. E la cosa divertente è che erano i bambini e le bambine che mi chiedevano sempre quali cravatte mettere, no? L'indomani, e me le chiedevano. Quindi loro percepiscono perfettamente ormai che sono sicuramente una figura un po' anomala rispetto alle mamme, alle loro mamme, alle loro nonne, però hanno ormai assimilato questa cosa. Il mio rappresentarmi non mi crea nessun tipo di problema rispetto a loro, insomma. I bambini accettano loro, senza, quindi accettano assolutamente senza problemi, senza, sì sì. Ma io lo dicevo l'altra volta, non so, forse parlando proprio con voi, con le compagne del CLR, io ho un disegno che conservo ormai da più di 20 anni, quindi è stato il primo ciclo che ho avuto, ed è un disegno bellissimo, è stato fatto da 3 alunne e un alunno e io sono rappresentata esattamente come io ero quando andavo in giro, quindi col gilet, la cravatta e la camicia, la cravatta, gli occhiali scuri, all'epoca avevo i capelli ricci e lunghi, i pantaloni. E accanto, dice, questa è la maestra Nancy, e accanto mi fanno il ragazzo della maestra Nancy, un trans, perché mi trovo, è un disegno bellissimo, che, cioè, quindi accanto questo ragazzo, chiaramente un uomo, aveva un abito rosso, i tacchi, quindi loro, quello era un pizzico di femminilità da qualche parte, hanno messo l'abito rosso. Quindi io non ho assolutamente problemi a mostrarmi per quella che sono, anzi, insomma, a far passare un altro tipo di messaggio, come per esempio appunto giocare insieme a loro in un certo modo e poi incitare naturalmente le bambine a farlo. La cosa che ci ha colpito quando abbiamo preparato questa trasmissione proprio con te è che tu hai raccontato l'episodio del pallone, per mm-hmm. esempio, e cioè che classico. Poi nella divisione dei ruoli rispetto ai giochi questi bambine e bambini tendono a rimanere confinati nei loro giochi ruolizzati, no? E quello che tu ci hai raccontato è che tu ti sei messa a giocare a pallone. Questa è una cosa che faccio sempre con loro. Allora, appena io mi intrometto e gioco, naturalmente si sono separati perché i bambini giocano a pallone e le bambine stanno per conto loro a ballare o a chiacchierare o a correre, insomma. Quando io mi, no, di sorpresa, senza dire niente, comincio a correre e inseguire il pallone, quindi gioco con i maschi, non passa neanche un minuto, cioè non passa neanche un minuto che tutte le bambine arrivano subito, no, e giocano a pallone. E l'indomani succede che loro vogliono giocare a pallone e si incazzano se, a parte che non glielo dicono i maschi, no, ma si incavolano magari se magari i maschietti dicono no, no, no. Quindi basta veramente un secondo, vedono me e subito non c'è neanche bisogno di dire niente, insomma. Quindi è il discorso del messaggio, comunque della, quello che chiamiamo, sì, della possibilità, di altra della possibilità. Di altra possibilità. Mm. Ok, io passerei alla stessa domanda con Elisa, che è alla scuola, come si chiama? Secondaria di primo grado. Di primo grado. Cioè, vabbè, nel mio caso il mio modo di essere, la mia differenza non è tanto nell'aspetto fisico, più che altro quando si arriva a parlare. L'anno scorso ho insegnato quasi per tutto l'anno la vecchia educazione civica, no? Per cui si affrontano argomenti come la parità, la famiglia, le diverse famiglie. Allora, vedendo loro una mia familiarità con certi argomenti, proporre appunto un modello femminile diverso che non si realizzasse solo attraverso la famiglia, il lavoro e la famiglia, solo il lavoro non basta. Comunque il lavoro domestico, okay, eccetera. Le cose solite che già conosciamo. Questa era una cosa che comunque li insospettisce. A un certo punto arriva il momento in cui loro hanno bisogno quindi di riclassificarmi, perché perso quella classificazione iniziale, e cominciano con le domande di rito, no? Come Caterina, cominciano ovviamente dal chiedermi se ho figli, vista l'età, poi se sono sposata, poi se sono fidanzata, e la tristezza veramente cala, cioè vedo che cominciano a diventare tristi perché non... E mi danno un'ultima possibilità di redenzione. Ma desideri avere dei bambini? Dico no. E da lì più volte mi è capitato, no, cercare di spiegare che poi sono comunque donna, una donna diversa che si realizza in un altro modo, cioè seguendo la propria strada e non quella che è stata tracciata per me, e invitando loro a cercare di fare altrettanto. Ecco. Va bene, e se rivolgiamo la stessa domanda ad Elena, che ha invece il... Le superiori, grande, finalmente si può dire con un tempo. No, anche perché sennò chi ci ascolta forse, insomma, sono i nomi tecnici, a parte la primaria, ma secondaria, superiore, insomma, diventa complicato. No, e nella scuola, insomma, dove insegno io, i ragazzi e le ragazze sono grandi, insomma, a parte che è molto diverso insegnare in una prima dove hanno 14 anni o in una quinta dove sono maggiorenni, insomma, sono proprio esseri umani molto diversi tra di loro, ma sono comunque persone già molto strutturate, per cui, come dire, le cose più istintive non vengono già, non le fuori, dicono più, non vengono fuori. Quello che noto nei miei confronti, quindi, insomma, in qualche modo qualcuno, per esempio, riconosce la mia politicizzazione in qualche modo, no? Ah, professor Emma, lei è femminista, ah, professor Emma, lei è una zecca, insomma, sono cose che mi sono state dette più volte. Io ovviamente non è che mi tiro indietro davanti a questo, insomma, ne parliamo, ci scherzo, gli dico come si permettono, insomma, delle cose così. Ma allora, innanzitutto una cartina tornasole, secondo me, abbastanza lucida di questo, è che in genere a me non fanno nessuna domanda sulla mia vita privata, ai miei studenti e le mie studentesse. Mi capita soltanto, che ne so, se mi capita di fare un'ora di supplenza, quindi con qualcuno che non mi conosce, allora mi chiede: ah, ma lei è sposata? Ah, ma lei c'ha figli? No. Altrimenti in genere no, però ripeto, si parla di persone grandi, esiste Google, esistono una serie di meccanismi per loro, per sapere, di strumenti per sapere chi sono i loro insegnanti, e loro li usano, quindi certo, in genere sanno chi sei, non è che non lo sanno, a meno che nella vita non tu faccia proprio altro che insegnare, qualcosa beccano di te da qualche parte. Però devo dire la verità che questo a me in classe non ha mai comportato problemi particolari, nessun problema, neanche quando per dirlo esplicitamente è diventato noto il mio lesbismo. Mm-hmm. perché a volte suppongo lo sia diventato senza che io lo sapessi, appunto tramite mi è capitato anche invece questa cosa fosse sia venuta fuori, io ovviamente non è che l'ho negata. Io devo dire che non ho avuto problemi. Il riscontro è che come dire, i ragazzi, le ragazze un po' si riposizionano, no? Davanti a qualcosa, che a qualcuno che gli mette in discussione due o tre certezze. Però ecco, è una domanda difficile secondo me a cui rispondere per dei ragazzi e delle ragazze grandi. Ma se ti posso, allora, se posso approfondire un momento rispetto proprio a questo che stai dicendo, Elena. Ti sarà capitato di parlare con le altre insegnanti che invece magari rappresentano un femminile più, di tipo più stereotipato, insomma, e hai notato, o nei discorsi che ti sei fatta, che hai fatto con le altre insegnanti, hai notato che ci sono dei comportamenti diversi? Hai detto le ragazze e i ragazzi di fronte a caratteristiche di un certo tipo si riposizionano chiaramente, ma questa cosa è molto mobile? Cioè, nel senso, si posizionano di volta in volta? No, il problema è che ovviamente è quello che c'è poi nel mondo, cioè che molte insegnanti donne sono donne che non si sono soffermate molto a pensare a cosa significa questo, no? Per esempio la scuola è un mondo di donne, per lo più, la stragrande maggioranza sono donne, è un mondo che parla solo al maschile. Certo. E quindi significa che c'è poca consapevolezza, poca riflessione, e quindi io vedo a volte colleghe che cosa trasmettono? Trasmettono se stesse, e trasmettendo se stesse alle studentesse cosa trasmettono? Delle donne che lavorano, ma che quindi è molto faticoso perché poi devono tornare a casa, far da mangiare, c'hanno i figli, le figlie, devono pulire casa. E cioè, io mi ricordo, per fare un esempio veloce, lo scorso anno, di essermi trovata in ascensore con una collega e due studentesse. La collega era molto affaticata e stava dicendo a queste ragazze: godetevela ora, perché quando sarete sposate non ci avrete più tempo per vivere, sostanzialmente. Ecco, sono messaggi di questo tipo, che credo siano quotidiani, che a me fanno molta paura. Infatti è questo, scusa se interrompo, no? Questa cosa del dire, del parlare, è vero quello che dici, siamo tutte donne e tutte propongono una serie di stereotipi, insomma, che conosciamo bene. Quello che invece succede a me è che io non parlo mai di fatica, no? Cioè, io quando parlo a loro gli parlo dei viaggi che faccio o che ho fatto, quindi o gli parlo dei cinema quando vado al cinema, o gli dico che vedo le mie amiche. Cioè, io parlo sempre di cose che sono fuori da l'ho preparato la cena, parlo di Jack per esempio, quindi parlo del mio gatto, quindi, e loro percepiscono questa cosa come una cosa diversa, e sento che quando io gli dico queste cose, quando per esempio guardiamo la cartina geografica e gli dico guardate questo è un bellissimo posto, vi auguro di andare qui appena potete, viaggiate, cioè loro sono molto affascinati da questa cosa, mentre quando poi gli proponi a mamma che deve o all'insegnante che deve tornare a casa a fare la cena, sono assolutamente annoiati. Quindi cioè, questo è il discorso, anche dargli, veicolare un altro tipo di scelta di vita, di scelta di vita, e loro sono molto affascinati da questa cosa, perché in qualche modo sanno che c'è qualcosa di diverso, e no? Che c'è, possono, che c'è una possibilità altra. Basta e questo, come ogni giorno, come ogni giorno qualcuno gli dice, noi ogni giorno dobbiamo invece, no, dargli altri stimoli, fargli capire, certo, che c'è qualcos'altro. Quando ci siamo incontrate per discutere, no, di questa trasmissione, un altro elemento che era venuto fuori, che a noi è sembrato estremamente interessante, è stata proprio questa. Ancora una volta, andando sugli stereotipi e sulle ruralizzazioni dei maschi e delle femmine, questo fatto che le bambine o le ragazze si pongono nei confronti dei loro coetanei e pari grado a scuola in termini di cura. E voi avete raccontato alcuni episodi, no? Mentre noi parlavamo, eccetera. Ecco, quest'altro elemento, no, che era quello appunto, se poi volete raccontare questi episodi, insomma, anche che ci sembravano significativi, però come poi voi vi ponete rispetto a questo tipo di atteggiamento estremamente stigmatizzante, no? Il ruolo femminile. E il vostro intervento quanto sia accolto, no? Allora, per quanto mi riguarda, sì, questa cosa io la noto soprattutto, vabbè, in questo, adesso in questa classe che ho, soprattutto in una bambina, ma perché conosco la madre e la madre è così, quindi la bambina non fa altro che ripetere quello che è un atteggiamento della madre di cura, una madre che anche dice giustamente, perché quello che passa alla madre è di comunque essere solidali, di aiutare le persone che hanno bisogno, di non avere atteggiamenti razzisti, quindi tutti assolutamente messaggi positivi, però che poi rischiano di essere eccessivi quando poi la bambina, no, deve stallire a mettere il cappotto a chi non ci riesce, a allacciare la scarpa, lì no, cioè bisogna anche lì stare bene attenti, che è vero che ci deve essere un discorso di solidarietà e di, chiamiamola cura, anche se molte, molte persone hanno paura di questa parola, credo che sia una bellissima parola che non prevede nessun tipo di dipendenza, no? Però quando la cura diventa, ecco, ti faccio tutto io, tu non fare niente, quando diventa obbligatoria, quando diventa obbligatoria, allora fare. Siccome questa cosa io l'ho notata in una bambina soprattutto, che poi di una bontà, perché la madre comunque dà degli ottimi, però per lei diventa poi ti aiuto io, ti aiuto io, e lì bisogna comunque in ogni modo dirgli che no, lei pensa a sé, che cioè che il bambino in questione, con cui ha un atteggiamento un po' più materno, possiamo dire questa cosa, io la devo bloccare e soprattutto devo anche farle capire che il bambino può farcela da solo anche se ha delle difficoltà, quindi devo rimandare anche una forza del bambino, che è quello che è in difficoltà in classe però che riesce a essere autonomo, e questo rimanda un'autonomia anche a lei, cioè lei può anche dice guarda no, allora infatti disinteressarsi, penso a me o comunque faccio un altro, non ti metto il giacchino ma penso magari a fare un'altra cosa, e questa è comunque una cosa quotidiana, cioè non bisogna mai abbassare la guardia, perché loro comunque arrivano già che sono purtroppo pieni, quindi è sempre purtroppo sì, però ecco con queste piccole cose in qualche modo si arriva, e io me ne accorgo giornalmente anche rispetto ai maschi, per esempio. Mm-hmm. Non so se posso, mi dilungo, non so, volevo chiedere la stessa cosa a Elena, perché invece lei ha avuto con sì, in questo è molto, cioè a me è capitato, appunto l'episodio a cui ti riferisci, si trattava appunto una scuola superiore, ragazze più o meno di 16 anni in quella classe, può capitare durante l'anno che si fanno delle festicciole in classe, non so, l'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale, giorno di carnevale, insomma esistono, e normalmente queste festicciole, almeno in questa scuola, venivano organizzate che i ragazzi e le ragazze portavano delle cose da mangiare e da bere, e magari un'ora veniva dedicata a questo. Al di là del fatto che ovviamente la maggior parte dei dolci e delle cose cucinate le portano le ragazze, ma spesso in realtà le cucinano le madri, insomma, non è che poi. Certo. Però detto questo, il problema è che poi quando si arriva alla fine della festicciola bisogna pulire, perché non si può lasciare ai collaboratori e alle collaboratrici il peso delle nostre feste, no? E quindi io dico sempre di rassettare, diamo una spazzata, eccetera. Immediatamente partono le ragazze e io ogni volta dico no, puliscono chiamo due o tre ragazzi, in genere quelli un po' più spacconi, e li faccio andare a prendere la scopa, insomma, eccetera eccetera. Ma quello che mi ha molto impressionato in queste occasioni non è tanto il fatto che i ragazzi strascicano i piedi cercando di non farlo, eccetera, perché poi insisti e lo fanno, sono le ragazze, alcune ragazze che mi hanno impressionato, perché le mette tantissimo in ansia non fare e non svolgere loro questo ruolo, continuano a cercare di levare la scopa di mano ai ragazzi dicendo ah ma guardi lui non lo sa fare quindi lo faccio io, e le devi proprio obbligare a sedersi in quel caso. In generale io credo che sullo stereotipo di genere, almeno per le superiori, io ci ho sempre lavorato in classe innanzitutto riprendendo qualunque frase che sottolinei lo stereotipo e facendocele ragionare e ribaltando la situazione. Non so, per esempio, mi viene in mente un episodio, una volta dico chi è che mi copia i nomi all'inizio dell'anno, chi è che copia i nomi della classe sul registro, un ragazzo interviene e dico una ragazza, perché le ragazze scrivono meglio, e dico io no mio caro, a questo punto lo scrivi tu, attraverso questo tipo di ribaltamento si spera di arrivare a un minimo di riflessione. Bisogna però stare attenti e attente, a mio parere, a che il ribaltamento non diventi carnevale. certo. Cioè non diventi un gioco, non diventi la sghignazzata, perché allora secondo me serve a niente, anzi rinforza. Rinforza, perché è chiaro che se è il gioco che si fa con la professoressa Zecca, cioè certo. Volevo chiedere una cosa invece. Posso aggiungere una cosa? E infatti il problema è che molte volte con questo tipo di interventi si rischia di essere isolate, perché ho insegnato sostegno e per cui lo noto il rapporto che le insegnanti donne hanno nei confronti delle ragazzine. Tendono a delegare la scrittura, attività di precisione, dove oppure cioè qualsiasi attività di cura. Quindi il problema è anche lì, cioè quello che diceva lei, si rischia di rendere un, cioè di fare un lavoro ma in maniera isolata, e che non ha poi nessuna risonanza nella loro vita. Ho vissuto episodi del genere, però io l'ho vista anche lì, ho avuto difficoltà a far indietreggiare le ragazzine rispetto, che ne so, a sparecchiare durante l'ora di mensa. Però io l'ho vissuta così, è come se togliessi a loro un momento di protagonismo, al di là del fatto che loro fossero abituate a farlo. Cioè ho fatto veramente fatica. Sì, perché dice alla fine noi questo lo sappiamo fare, almeno questo lasciacelo. Questa è la, sì, no, il bisogno di protagonismo, perché nel senso che altre cose non le possono fare o non gli è dato fare, perché è dato il ruolo. Un messaggio che proprio passa su tutto è che le ragazze brave a scuola sono brave perché sono ordinate, precise e volenteroso, e volenterose. I ragazzi bravi sono bravi perché sono intelligenti. Ora, questo non risponde assolutamente a una realtà, perché ci sono ragazzi molto ordinati e precisi, ragazze che non lo sono. Io sono stata una ragazza molto sprecisa in tutti gli ordini di scuole. Però il messaggio è sempre questo, no? Per cui l'unica caratteristica quella è brava perché visto, è precisa, è ordinata, è volenterosa, come se fosse l'unico aspetto positivo che si ritraccia nelle ragazze. Ovviamente, ripeto, no, la principessa della situazione, poi in qualche modo, cioè come se appunto fossero delle principesse brave in tutto, quindi ordinate, precise e rimangono poi ingabbiate in questo ruolo, per cui i ragazzini tendono a delegare e loro, io ho cercato di spiegare, cioè questa vostra solerzia nell'intervenire, nel cercare appunto di sparecchiare sempre solo voi, alla fine voi legittimate anche i ragazzi a stare lì mentre voi sparecchiate, a disturbarvi niente. In realtà, perché complicano soltanto il loro complicavano soltanto il loro lavoro. Però alla fine, dopo settimane, confesso che ho dovuto rinunciare, perché mi sono trovata le ragazzine contro più dei maschi. Non so, io siamo alle 22, abbiamo straforato il tempo alla grande. No, io andrei avanti all'infinito proprio. Sì, noi avevamo preparato molte domande, sì, alcune le lasciamo così nell'aria sperando che questa non sia solo una seconda puntata, ma che su questo argomento ci si possa ritornare, si possa coinvolgere per esempio anche Rosina, certo, che ci può raccontare della sua esperienza scolastica. Va bene, è andata negli anni. Posso solo ricordare, sì, una frase di una persona a me molto cara che non c'è più, che diceva che l'insegnamento è un fatto politico. Un fatto politico, ma Grazia diceva anche è un fatto rivoluzionario. Di rivoluzionario. L'educazione è un fatto rivoluzionario. Bisogna mi piace vedere ricordarla, in questo senso, ricordare questa frase, perché è vero, perché spesso no, insegnamento, una missione, le cose. No, è anche, almeno soprattutto per alcune di noi, è un fatto politico. Politico, e può essere assolutamente rivoluzionario. È assolutamente non una missione, un lavoro con uno stipendio basso. Brava. Brava, questo ricordiamo. Mal pagato. Allora, noi ci vediamo tra 15 giorni. Sì. Ringraziamo Elena, Nancy, Elisa, pure Lucilla, Stefania che ha fatto da tecnica. Grazie a voi. Caterina che ha preparato questo pezzo bellissimo di apertura in cui ci ha raccontato la sua vita, la sua vita lavorativa e il suo rapporto con i bambini e con le bambine. Sì, no, ma poi io penso che ringraziate Rosina che vi ha portato in macchina. Mi sembra fondamentale. Io trovo che comunque al di là di tante lucubrazioni mentali, secondo me gli aneddoti potrebbero rendere molto di più l'idea e anche in un modo molto più immediato. Quindi se ci dovesse venire in mente, se anche voi avete, che ci ascoltate, avete in mente aneddoti al riguardo, potete scriverceli e quindi noi ci possiamo pensare a farci sopra un'altra trasmissione. Arrivederci. D'accordo. Fra 15 giorni da tutte noi. Ciao. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.